Hello. C'è che non ti piace più, cammini in fretta e sempre a testa in giù, e così cerco di parlarti ma tu mi scappi via. Capisco il gesto ma così rovini la vita mia. Insomma, uno come te non si dovrebbe barricare, entrare nelle case come fa Babbo Natale. Allora sì, sei leale. In linea di principio non ci sei quasi mai, e chi prova a reagire può passare dei guai, e quindi è sempre meglio averti come amico. Non ti importa quello che ti dico, ma senti, uno come te non si dovrebbe vergognare di stare con la gente e cominciare a parlare. Allora sì, ti vincerai. Come cazzo fai? Solo chi ti copre le spalle ti proteggerà, perché di certo anche lui qualcosa ci guadagnerà. E allora uno come te non si dovrebbe